Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Fu chiamata all'udienza. Gli inglesi si fecero precedere in aula dalle loro sedie, perché era essenziale che apparissero in tutta la loro maestà. E quando gli assistenti ebbero preparato tutto, essi entrarono nella sala fatiscente a uno, con aria di sufficienza, come se si trattasse di un banco da fiera. L'intendente, nel sedersi, se ne uscì con una delle sue solite battute di spirito, che fece sorridere la sua cerchia, e gli indiani, non potendo sentire cosa diceva, sospettarono che si preparasse qualche nuova perfidia, altrimenti i signori non avrebbero ridacchiato. L'aula era affollata e naturalmente caldissima, e la prima persona che Adela scorse era il più umile tra i presenti, uno che ufficialmente non aveva nessun rapporto col processo, l'uomo che manovrava la punca, quella sorta di enorme ventaglio appeso al soffitto. Quasi nudo e di forme scultoree, sedeva su una pedana verso il fondo della sala, in mezzo al corridoio centrale, e attrasse subito l'attenzione di Adela appena entrata. Pareva che stesse sorvegliando quello che succedeva. Aveva la forza e la bellezza che talvolta fioriscono negli indiani di bassa condizione. Quando quella strana razza si avvicina alla polvere ed è bollata come intoccabile, la natura ricorda la perfezione fisica che ha raggiunto altrove e genera un dio, non molti, ma qualcuno qua e là, per dimostrare alla società quanto poco la impressionino le sue distinzioni. Quell'uomo sarebbe stato notevole dovunque. In mezzo ai fianchi scarni e ai petti incavati di Chandrapur appariva divino, e tuttavia apparteneva alla città. Si era sfamato dei suoi rifiuti, sarebbe finito nella sua spazzatura. Tirando e allentando la corda ritmicamente, mandando sbuffi d'aria sugli altri, non ricevendone alcuno, sembrava al di fuori dei destini umani. Un fato maschio, un vagliatore di anime. Di fronte a lui, anche egli su una pedana, sedeva il piccolo assistente del magistrato, colto, imbarazzato e coscienzioso. L'uomo del ventilatore non era niente di tutto questo. Sapeva a stento di esistere e non capiva perché l'aula fosse più affollata del solito. In realtà non sapeva che era più affollata del solito. Non sapeva nemmeno di manovrare un ventilatore, quantunque capisse di tirare una corda. Quel suo isolamento c'era qualcosa che colpì la ragazza del ceto medio britannico e le rinfacciò la meschinità della sua sofferenza. Per quale virtù era riuscita a radunare tanta gente in quella stanza? La particolare qualità delle sue opinioni e il Geova suburbano che le santificava, con quale diritto vantavano nel mondo un'importanza così grande e si attribuivano l'appellativo di civiltà? Mrs. Moore. Adela si guardò intorno, ma Mrs. Moore era lontanissima, sull'oceano. Quella era proprio una delle domande su cui avrebbero potuto discutere nel viaggio di andata, prima che la vecchia signora diventasse bisbetica e stravagante. Mentre pensava a Mrs. Moore, udì dei suoni, che a poco si fecero più precisi. Il clamoroso processo era cominciato, e il sovrintendente di polizia stava leggendo i capi d'accusa. Mr. McBride non si preoccupò di riuscire un oratore interessante. Lasciava l'eloquenza alla difesa, che ne avrebbe avuto bisogno. Il suo atteggiamento diceva: tutti sanno che quest'uomo è colpevole, e io sono costretto a dirlo pubblicamente prima che vada in galera. Non si appellò al moralismo o ai sentimenti, e solo per gradi la studiata negligenza dei suoi modi divenne evidente e attizzò il furore di una parte del pubblico. Egli descrisse diligentemente com'era nato quel picnic. L'imputato aveva conosciuto Miss Quested a un trattenimento dato dal direttore dell'istituto governativo e aveva fatto subito dei progetti su di lei. L'imputato era un uomo dalla vita licenziosa, come avrebbero dimostrato i documenti trovati su di lui all'atto dell'arresto. Anche il suo collega, il dottor Pannalal, era in grado di far luce sul suo carattere e avrebbe testimoniato lo stesso maggiore Callender. Qui Mr. McBride si interruppe. Voleva mantenere la procedura quanto più corretta possibile, ma la patologia orientale, il suo argomento preferito, gli si dispiegava d'intorno, ed egli non poté resisterle. Togliendosi gli occhiali, come faceva sempre prima di enunciare una verità generale, li fissò tristemente e dichiarò che le razze scure sono fisicamente attratte dalle più chiare, ma non viceversa. Non c'era motivo di amarezza in tutto ciò, e nemmeno di ingiuria. Si trattava di un fatto che ogni osservatore scientifico avrebbe potuto confermare. «Anche quando la signora è tanto più brutta del gentiluomo?» La frase cadde dal nulla, dal soffitto forse. Era la prima interruzione, e il magistrato si vide costretto a deplorarla. «Fate uscire quell'uomo!» disse. Uno dei poliziotti indigeni afferrò un uomo che non aveva aperto bocca e lo fece rudemente uscire. Mr. McBride si rimise gli occhiali e continuò. Ma quella frase aveva sconvolto Miss Quested. Il suo corpo era offeso d'essere stato chiamato brutto e tremava. «Vi sentite male, Adela?» domandò con affettuosa indignazione Miss Derek, che aveva cura di lei. «Non mi sento mai diversamente, Nancy. Arriverò sino in fondo, ma è atroce, atroce». Questo provocò il primo di una serie di incidenti. I suoi amici cominciarono ad agitarsi intorno a lei e il maggiore gridò: «Chiedo che la mia paziente sia sistemata meglio. Perché non le è stato riservato un posto sulla pedana? Non le arriva un filo d'aria». Mr. Das parve seccato e disse: «Sarò lieto di far preparare una sedia quassù per Miss Quested, date le sue particolari condizioni di salute». Gli assistenti spostarono non una, ma parecchie sedie, e tutto il gruppo seguì Adela sulla pedana. Mr. Fielding fu l'unico europeo che rimase nel settore riservato al pubblico. «Così va meglio», osservò Mrs. Tarton mentre prendeva posto. «Un cambiamento opportunissimo per molte ragioni», rispose il maggiore. Il magistrato sapeva che avrebbe dovuto deplorare questa osservazione, ma non osò. Callender vide che aveva paura e gridò in tono autoritario: «Bene, McBride, proseguite pure. Scusate se vi abbiamo interrotto». «State bene ora?» domandò il sovrintendente. «Può andare, può andare». «Continuate, Mr. Das. Non siamo qui per disturbarvi», disse l'intendente con aria protettiva. In realtà non avevano tanto disturbato quanto preso in mano il processo. Babuji dheere chalna, kar me zara sambhalna, haan bade dhoke hai is raah mein, babuji dheere chalna, kar me zara sambhalna, haan bade dhoke hai is raah mein, babuji dheere chalna». Mentre l'accusa proseguiva, Miss Quested esaminò l'aula, timidamente a tutta prima, come se temesse di bruciarsi gli occhi. A sinistra e a destra dell'uomo della panca notò molti visi vagamente noti. Ai suoi piedi erano raccolti tutti i relitti dei suoi stupidi tentativi di vedere l'India, le persone che aveva incontrate alla festa Ponte, parecchi serbi, contadini, funzionari, e l'imputato in persona. Sedeva là, un forte, lindo, piccolo indiano dai capelli nerissimi e le mani morbide. Adela lo osservò senza particolari turbamenti. Dall'ultima volta che si erano visti l'aveva sublimato in un principio del male, ma adesso gli appariva quello che era sempre stato, un lontano conoscente. Era trascurabile, privo di importanza, secco come un osso e benché colpevole, non aveva intorno un'aura di peccato. è colpevole, immagino. Possibile che mi sia sbagliata? Penso a lei. Perché quell'interrogativo si presentava ancora al suo intelletto, anche se da quando era partita Mrs. Moore aveva cessato di turbare la sua coscienza. Ora si alzò il difensore, Mahmoud Ali, che con pesante e inopportuna ironia domandò se si potesse sistemare sulla pedana anche il suo cliente. Perfino gli indiani, qualche volta, si sentivano indisposti, benché naturalmente il maggiore Callendar fosse di avviso contrario come dirigente di un ospedale governativo. Un altro esempio del loro squisito senso umoristico, cantilenò Miss Derek. Ronnie guardò Mr. Das per vedere come se la sarebbe cavata e Mr. Das fu preso dall'agitazione e rimproverò seccamente l'avvocato Mahmoud Ali. «Scusate!» Era la volta del celebre penalista di Calcutta. Era un bell'uomo, imponente e di ossatura forte, dai capelli grigi tagliati cortissimi. «Noi ci opponiamo alla presenza di tanti signori e signore europei sulla pedana», disse con accento di Oxford. «Finiranno con l'intimidire i nostri testi. Il loro posto è con tutti gli altri nel settore del pubblico. Non ci opponiamo che Miss Quested rimanga sulla pedana dal momento che è stata indisposta. Le dimostreremo ogni cortesia per tutta la durata del dibattito, nonostante le verità scientifiche rivelateci dal sovrintendente distrettuale di polizia, ma ci opponiamo alla presenza degli altri». «Oh, smettetela di fare il galletto e lasciateci arrivare alla sentenza», brontolò il maggiore. L'illustre ospite fissava rispettosamente il magistrato. «L'eccezione è accolta», disse Mr. Das, celando disperatamente il viso in certe carte. «Il permesso di sedere quassù l'avevo dato solamente a Miss Quested. I suoi amici dovrebbero essere tanto gentili da ritirarsi». «Ben fatto, Das, perfettamente giusto», disse Ronnie con onestà disarmante. «Ritirarsi? Ma sentitelo! Che sfacciataggine senza nome!» gridò Mrs. Tarleton. «Vieni, non fare storie, Mary», le mormorò il marito. «Ma la mia paziente non può rimanere senza assistenza», protestò il maggiore Callendar. «Vi opponete che il chirurgo civile rimanga, Mr. Amritrao?» intervenne Das. «Devo oppormi. Una pedana conferisce autorità. Anche quando è alta 15 centimetri, perciò andiamocene tutti», disse l'intendente, cercando di ridere. «Grazie infinite, signore», disse Mr. Das con profondo sollievo. «Grazie, Mr. Hislop, grazie, gentili signori». E il gruppo, Miss Quested inclusa, discese dal suo sconsiderato piedistallo. La notizia della loro umiliazione si sparse in un baleno, e la folla all'esterno li derise. Furono seguiti dalle loro sedie speciali. Mahmoud Ali, che l'odio rendeva stupido e inetto, si oppose anche a quelle. Con quale autorità erano state portate delle sedie speciali? Perché non ne aveva una anche il Nawab Bahadur? E così via. Tutto il pubblico si mise a parlare di sedie speciali e normali, di guide per terra, di pedane alte 15 centimetri. Ma quella piccola digressione ebbe un effetto salutare sui nervi di Miss Quested. Si sentiva più a suo agio, ora che aveva visto tutte le persone che c'erano nell'aula. Era come sapere il peggio. Adesso era sicura che ne sarebbe uscita benissimo, ossia senza vergogna spirituale, e diede la buona notizia a Ronnie e a Mrs. Tarleton. Ma quelli erano troppo agitati dal colpo inferto al prestigio britannico per badarle. Da dove stava seduta, ella poteva vedere Mr. Fielding, il rinnegato. L'aveva visto molto meglio dalla pedana e sapeva che un bambino indiano stava appollaiato sul suo ginocchio. Egli osservava quello che succedeva, osservava lei. Quando i loro occhi si incontrarono, lui distolse i propri, come se uno scambio diretto non lo interessasse. Anche il magistrato era più contento. Aveva vinto la battaglia della pedana e acquistato sicurezza. Intelligente e imparziale, continuò ad ascoltare i capi d'accusa e cercò di dimenticare che più tardi avrebbe dovuto emettere una sentenza basata su quelli. Il sovrintendente tirò avanti imperterrito. Aveva previsto queste esplosioni di insolenza. Erano i naturali atteggiamenti di una razza inferiore e non manifestava nessun odio verso Aziz, ma solo un immenso disprezzo. L'accusa trattò a lungo delle vittime dell'imputato, come furono chiamate, Fielding, il servo Anthony, il Nawab Bahadur. Questo aspetto del processo era sempre apparso discutibile a Miss Quested, che aveva pregato la polizia di non approfondirlo. Ma loro miravano a una condanna grave e volevano dimostrare che l'aggressione era premeditata. E per spiegarne la tattica esibirono una pianta dei Monti Marabar, dove era indicato il percorso seguito dalla comitiva e la cisterna del pugnale dove si era accampata. Il magistrato manifestò un certo interesse per l'archeologia. Fu esibita la planimetria di una grotta tipo. Era classificata grotta buddista. Non buddista, credo. Jain. In quale grotta si dichiara avvenuto il misfatto? La buddista o la Jain? Domandò Mahmud Ali con l'aria di smascherare una cospirazione. «Tutte le grotte Marabar sono Jain», rispose l'accusa. «Sì, signore! Allora in quale grotta Jain?» «Avrete modo di fare queste domande più tardi». Mr. McBride sorrise leggermente della loro fatuità. «Gli indiani sdrucciolano inevitabilmente su particolari come questi». Era informato che la difesa aveva non si sa quale folle speranza di stabilire un alibi, che aveva cercato senza successo di identificare la guida, e che Fielding e Hamidullah erano andati fino al Cabo Adol e per tutta una notte, al chiaro di luna, avevano misurato a passi le distanze. «Mr. Leslie dice che sono buddiste, e lui dovrebbe saperlo meglio di chiunque, ma posso richiamare l'attenzione sulla loro forma?» E descrisse quello che vi era accaduto. Poi si soffermò sull'arrivo di Miss Derek, sulla rovinosa discesa lungo il canalone, sul ritorno delle due signorine a Chandrapur e sulla dichiarazione che Miss Quested aveva firmato all'arrivo, nella quale si parlava del binocolo. Ed ecco la prova decisiva, la scoperta del binocolo addosso all'imputato. Per il momento non ho altro da aggiungere, concluse McBride togliendosi gli occhiali. Ora chiamerò i miei testimoni. I fatti parleranno da soli. L'imputato è uno di quegli individui che conducono una doppia vita. Oso dire che la degenerazione si sia gradualmente impossessata di lui. È stato abilissimo nel nasconderla, come tipico di questi individui, e nel fingersi un rispettabile membro della società, ottenendo perfino un impiego governativo. Adesso è completamente preda del vizio senza possibilità di riscatto, temo. Si è comportato nel modo più crudele e brutale con un'altra delle sue ospiti, un'altra signora inglese. Per sbarazzarsi di lei ed essere libero di compiere il suo misfatto, l'ha cacciata in una grotta tra la calca dei suoi servi. Questa però è una osservazione incidentale. Le sue ultime parole suscitarono un'altra tempesta e d'improvviso un nuovo nome, Mrs. Moore, vorticò nell'aula come un turbine di vento. Mahmud Ali fu preso dal furore, i suoi nervi cedettero, si mise a gridare come un pazzo e domandò se il suo cliente era accusato di omicidio, oltre che di stupro, e chi fosse quest'altra signora inglese. Non ho intenzione di citarla. Non la citate perché non potete. L'avete allontanata segretamente dal paese, è Mrs. Moore. Lei avrebbe potuto dimostrare l'innocenza dell'imputato, era dalla parte nostra, era amica dei poveri indiani. Potevate citarla voi, gridò il magistrato. Nessuna delle due parti l'ha citata e nessuna delle due deve invocarla come testimone. Finché si era in tempo, l'hanno tenuta lontana da noi. Ecco la giustizia inglese. Questo è il vostro impero britannico. Ridateci Mrs. Moore per 5 minuti soltanto ed essa salverà il mio amico, salverà il nome dei suoi figli. Non la eliminate dal processo, Mr. Das. Ritirate quelle parole dal momento che anche voi siete padre. Ditemi dove l'hanno nascosta. Oh, Mrs. Moore! Se questo particolare può avere una qualsiasi importanza, mia madre dovrebbe avere raggiunto Aden, disse Ronnie seccamente. Avrebbe fatto meglio a non intervenire, ma l'attacco l'aveva sconvolto. L'avete segregata laggiù perché sapeva la verità, insisteva Mahmoud Ali, che era come impazzito, e nel tumulto lo si udì gridare: mi rovino la carriera, non importa, siamo destinati tutti alla rovina, uno per uno. Non è questo il modo di difendere la vostra causa. L'uomo di Mr. Das, io non sto difendendo una causa. Come voi non la state giudicando. Siamo soltanto degli schiavi, tutti e due. Mr. Mahmoud Ali, vi ho già avvertito. E se non vi sedete, sarò costretto a far valere la mia autorità. Fatelo! Questo processo è una farsa, io me ne vado! Porse le sue carte ad Amri Trao e uscì. Dalla porta gridò istrionicamente ma con intensa passione: Aziz, Aziz, addio per sempre. Si continuava a invocare Mrs. Moore e la gente che non sapeva cosa significassero quelle sillabe le ripeteva come una formula magica. Vennero indianizzate in Mrs. Moore, furono raccolte dalla folla in strada. Invano il magistrato ricorreva alle minacce e alle espulsioni, non aveva alcun potere finché la magia non si fosse esaurita. Osservò Mr. Tarton. Ronnie ne diede la spiegazione. Prima di partire, sua madre aveva cominciato a parlare dei Marabar nel sonno, specie di pomeriggio, quando i servi erano sotto il portico, e senza dubbio le sue frasi sconnesse su Aziz erano state vendute per pochi spiccioli a Mahmoud Ali. Sono cose che in Oriente non finiscono mai. Aspettavo che avrebbero tentato qualcosa del genere. Ingegnoso. Guardò in quelle bocche spalancate. Con la loro religione fanno lo stesso, aggiunse calmo. Cominciano e non possono più fermarsi. Mi rincresce per il vostro caro Das. Ha una bella gatta da pelare. Ah, Mr. Islop, che vergogna tirare in ballo la vostra cara mamma, disse Miss Derek chinandosi in avanti. Non è che un espediente, rispose Ronnie, e questa volta per caso è riuscito. Ora si capisce perché hanno assunto Mahmoud Ali, giusto per fare una scenata alla prima occasione, è la sua specialità. Ma gli dispiaceva più di quanto non mostrasse. Era ripugnante sentir trasformare sua madre in Mrs. Moore, una dea indù. Devakyam Devarupin. Mrs. Moore! Mrs. Moore! Mrs. Moore! Mrs. Moore! Ronnie? Sì, cara? Non è tutto molto strano? Temo che per te sia molto sconvolgente. No, affatto. Non me ne importa.